serie dopo tu blackout. Dicono che siamo noi marziani sempre indecisi sulle sorprese di tutta questa oscurità. Piove già.

Thank you. Thank you. finestre sul mare. colpire dentro di me. gioia di cantare, la voglia di sognare. Il senso di raggiungere quello che non hai. Ecco un altro giorno come ieri. Aspettare il mattino per ricominciare. Abbandonato, che cerca inutilmente di fiorire. intrisa di rugiada, poi porgere le mani verso lei. Aspettare che il vento porti giù tutte le stelle e circondar quel cuore che li attende. Scricchiolar le foglie, confondersi nell'aria, tra i gemiti un canto nascerà. Per l'attimo ineguale, in quel fragore tutta la sua gloria. Grido, mi risponde, volando su quell'ala, e in tuffo quel tuo nido mi aprirà. Suoi occhi marroni.